si è scoperto che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo. È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Da poco tempo fa le applicazioni della scienza. Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia. La libertà di poterlo ridistribuire e modificare. La cultura scientifica, voglio dire, è qualcosa di immenso. Caccia al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. E sono le 10.36 di questo sabato 11 ottobre 2008 e benvenuti ad un'altra puntata di Caccia al fotone. Come al solito diamo i soliti contatti 333-180-9494 per inviare un sms e cacciafotone at radiocittafugico.it per inviare una mail. Beh, l'avete sentito sicuramente sulla stampa, è stato dato il primo Nobel per la medicina a Luc Montagnier per la scoperta nel 1983 della correlazione fra AIDS e HIV. E oggi proveremo a parlare proprio di questo. E ne parleremo con il dottor Vincenzo Colangeli. Buongiorno dottor Colangeli. Buongiorno a tutti. Dottor Colangeli, cominciamo un attimo a inquadrare questa malattia. Cerchiamo di spiegare un attimo che cosa vuol dire AIDS per essere precisi. Sì, buongiorno. Allora, AIDS è sindrome da immunodeficienza acquisita. Già questa definizione ha bisogno di alcuni chiarimenti, perché come avete capito non si tratta di una pura e semplice malattia, ma va specificata nei termini. Sindrome, ad esempio, vuol dire che è un insieme di sintomi che possono essere più variegati, che sono direttamente correlati a quello che il virus HIV, che è quello che provoca l'infezione, eventualmente la malattia di AIDS, provoca nell'individuo, cioè un'immunodepressione. In seguito a questa immunodepressione, diciamo, legata soprattutto e non esclusivamente alla distruzione di particolari cellule del sistema immunitario, che sono in genere i CD4, si viene a creare una carenza delle difese immunitarie nell'ospite, per cui si possono avere a carico dei vari organi patologie diverse. Per cui sindrome sta proprio a indicare quello, a seconda dell'organo che viene in qualche modo colpito possono cambiare i sintomi, possono esserci problemi cerebrali, possono esserci problemi di linfomi, di tumori, di sarcomi, possono esserci quindi polmoniti, e questa è la cosa che bisogna innanzitutto chiarire. La differenza importante rispetto ad altre sindromi immunodepressive sta nel fatto dell'ultima parola, che vuol dire acquisita. Acquisita significa che in qualche modo è qualcosa che si acquisisce durante la vita di relazione, non è un qualcosa come altre sindrome di depressione immunitaria che possono essere congenite, nel senso che persone possono nascere con questo problema e portarsi per tutta la vita. Qui è qualcosa che noi possiamo incontrare durante la nostra vita di relazione. A maggior ragione quindi poi andremo a individuare quello che può essere l'aspetto epidemiologico per vedere bene come sono le situazioni all'interno della nostra società. Segnale ai nostri ascoltatori che potranno fare le domande al dottor Colangeli attraverso gli sms e attraverso la nostra mail, che ricordiamo il 333-180-9494 e cacciafotone at radiocittafugico.it. E adesso andiamo con la musica. Questo è Josh Woodward con Morning Blue. Sunrise. season and the patriotic treason, the ringing of the bells, the avalanche of sorrow and the soul. Find it. Take my hand or take a stand, and I would never mind it. Sit and stare or say a prayer for all you left behind. Call me, just never be the last one left in line. Oh. This morning on the wrong side of the bed, I should have stayed in bed and slept all day instead. E bentornati a Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fucico. Quella che vi state ascoltando è una canzone di John Woodward e, come da tradizione, questa è musica Creative Commons. Ora però, ancora come tradizione, spazio al cinema. Lei è un buon avvocato, Andrew? Sono un eccellente avvocato. Cosa la rende un avvocato eccellente? Io amo il diritto. Conosco il diritto. Sono eccellente nella sua pratica. Cosa le piace del diritto, Andrew? Il fatto che una volta ogni tanto, non sempre, ma a volte, diventi parte integrante della giustizia applicata alla realtà. È un'esperienza davvero eccitante quando questo avviene. Grazie, Andrew. Vincenzo, hai riconosciuto questo film? È uno dei film storici della cinematografia in cui si parla di AIDS, forse il film più toccante in cui si parla di questa malattia. Sì, Philadelphia, un film che in qualche modo ha fatto un po' conoscere al grande pubblico il problema dell'AIDS, che ancora purtroppo tende a essere un po' misconosciuto in molti ambienti. Diciamo che la cosa interessante e importante di queste situazioni è proprio quello di cercare di portare alla maggior parte della popolazione la conoscenza che anche che questa è una malattia come tutte le altre, che non bisognerebbe cercare di tenerla nascosta, tenerla per se stessi. È chiaro che c'è stato proprio presumibilmente un errore iniziale nel valutare questa situazione, perché si pensava negli anni Ottanta, soprattutto su quanto arrivava all'inizio dagli Stati Uniti, che fosse una malattia che doveva e poteva toccare solamente alcune frange della popolazione. Mi riferisco ai tossicodipendenti in Europa, in Italia, o agli omosessuali negli Stati Uniti e poi di conseguenza in Italia. Purtroppo oggi si è visto che questa è una malattia e dopo spiegheremo anche un'infezione che colpisce tutta la popolazione, in quanto se all'inizio si poteva parlare di categorie particolarmente colpite, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 2 anni, dai dati anche ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità, si è visto che la stragrande maggioranza delle nuove infezioni e anche malattie sono legate a persone che hanno avuto pratiche eterosessuali, quindi tutto quanto il discorso delle categorie a rischio viene a cadere. Adesso, più che di categorie a rischio, si può parlare di pratiche a rischio. Una cosa che vorrei anche qui chiarire, che a volte spesso ci viene chiesta, è la differenza che esiste tra un'infezione, quindi infezione da HIV, e la malattia che è l'AIDS. Esatto. L'infezione da HIV è la presenza di questo virus che una persona può avere, come dicevamo all'inizio, acquisito durante la sua vita di relazione. Nel momento in cui si vengono a creare delle turbe al sistema immunitario, cioè delle carenze, un'immunodepressione, si possono avere determinate patologie. In Europa determinate patologie vengono classificate, se insieme all'infezione da HIV, come appunto malattia conclamata, che è l'AIDS. Negli Stati Uniti, oltre a questo aspetto semplicemente legato all'aspetto medico, si fa anche una classificazione numerica secondo il numero dei CD4 sopra o sotto i 200. E le CD4 che cosa sono esattamente? I CD4 sono quelle cellule che vengono maggiormente, diciamo, colpite dal virus dell'HIV, che in qualche modo vengono poi distrutte, perché il virus, come tutti i virus, per poter continuare a sopravvivere e riprodursi, hanno bisogno di penetrare nella cellula. All'interno della cellula utilizzano tutte le sostanze, le proteine che appunto loro non possono produrre, e una volta che sono riprodotti questi virus, tornano in circolo e vanno ad colonizzare altre cellule. Questo vuol dire che in Europa praticamente c'è una serie di malattie che si avvengono, che AIDS oppure no? Sì, ma non solo in Europa, questo è tutto il mondo. Era solo semplicemente un problema di classificazione, perché le classificazioni vengono fatte molto spesso a scopo didattico. Per noi che lavoriamo all'interno dell'ospedale molto spesso non ne teniamo conto. Noi sappiamo ad esempio che ci sono delle patologie come quelle ad esempio citate nel film Un sarcoma di Kaposi associato all'infezione HIV, è una situazione che rientra nel quello che è l'AIDS. Quelle macchie alla pelle che aveva sul corpo, esatto. Sì. Le macchie scure che sono sulla pelle, ad esempio anche una toxoplasmosi cerebrale, che sono delle masse cerebrali legate a toxoplasma che generalmente non fanno nulla, le persone che non hanno questi problemi in corso di infezione HIV possono essere molto gravi, forme di polmoniti, forme di malattie ematologiche tipo i linfomi, o anche la candida, che è un genere che si trova sempre anche nei bambini piccoli, quello che è definito un mughetto. Se associate a un'infezione HIV, se si trova nel polmone o nell'esofago, rientrano anche queste in questa categoria. Ma perché questo? Perché c'è un sistema immunitario che non funziona, e queste situazioni si creano proprio per una carenza di difesa dell'individuo. Vincenzo, prima hai fatto una differenza fra sieropositività e malattia. I malati di AIDS stimati in Italia quanti sono? Ma dunque, qui c'è un problema che approfitto un secondo per fare. Dunque, noi abbiamo, come tutte le malattie infettive in Italia, l'obbligo di notifica che viene fatto da tutti i medici che vedono quella determinata patologia, che poi tramite la regione viene coordinata dal COA, l'Istituto Superiore di Sanità. Ora, a tutt'oggi esiste possibilità di fare una notifica dei casi conclamati, quindi malattia di AIDS, che a tutt'oggi abbiamo stimato, con i dati del 2007 dell'ISS, a circa 59.000 casi. Il problema qual è adesso? Che avendo delle possibilità di cura abbastanza importanti, è difficile che le persone con l'infezione da HIV raggiungano lo stato di malattia conclamata, e quindi è difficile avere il dato della notifica. Si sta cercando in questi mesi e in questi giorni anche, tramite un decreto dello Stato, di demandare alla Regione la possibilità di creare un registro che possa notificare non solo i casi di malattia ma anche i casi di infezione. Questo è di basilare importanza, perché facendo il solito esempio che si fa sempre, se noi prendiamo l'iceberg, i casi AIDS sono la punta dell'iceberg, le infezioni è tutto quello che noi non vediamo. Solo quando saremo in grado di valutare qual è la reale portata dell'infezione che ha nella nostra popolazione, saremo in grado di poter dare più informazioni sia sulle situazioni a rischio, ma anche per poter in qualche modo inviare dei messaggi più importanti dal punto di vista della profilassi o su come, quali sono le popolazioni su cui bisogna agire maggiormente per ridurre il rischio. Noi ci lasciamo con un po' di musica e poi torniamo subito in studio. Sleepless night, I just wanna be here. go. Do what you want. I am tired, I am sick of this. I never wanted to even admit to this. I was into you, but now I'm in too deep. And now I'm telling you I may be awake, but I never really opened up my eyes. E torniamo in studio, benvenuti a Caccia al Fotone. Beh, proprio nei giorni scorsi Alessandra Cerioli è stata eletta presidentessa della Lila, la Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS. E allora noi l'abbiamo raggiunta e le abbiamo fatto un'intervista. Ecco la sua voce. Lila è la Lega Italiana Lotta all'AIDS, è nata nel 1987, si compone di 14 sedi locali sparse in tutto il territorio italiano. Noi da subito ci siamo iniziati a occupare di prevenzione, facendoci promotori di alcuni programmi di riduzione del danno, per esempio come unità mobili per lo scambio di siringhe, nel senso che poi all'inizio, parliamo degli anni, primi anni 80, quando arrivò l'HIV e in Italia, a differenza degli Stati Uniti dove la comunità più colpita era la comunità omosessuale, invece in Italia la comunità più colpita furono le persone tossicodipendenti, per cui molti di noi in quell'epoca erano tossicodipendenti oppure avevano appena smesso di usare sostanze, quindi fummo fra i promotori di queste tecniche di prevenzione, che quindi ci facevamo promotori di programmi di scambi di siringhe e soprattutto anche di tutti gli altri interventi sulla prevenzione, prevenzione sessuale, attivando anche in ogni sede locale un centralino helpline dove praticamente rispondiamo a domande sulla prevenzione. Poi da quando nel 1996 sono iniziati a uscire i primi farmaci efficaci contro l'HIV, ci siamo iniziati anche a occupare di terapie, di trattamenti, nel senso che comunque noi incontriamo ricercatori, incontriamo l'industria farmaceutica. L'unico strumento veramente sicuro e disponibile a tutti sono due, anzi, uno è il profilattico maschile e l'altro è il profilattico femminile. E poi ovviamente rispetto a chi usa ancora sostanze stupefacenti per via iniettiva, non scambiare materiale per l'iniezione. C'è una scarsa attenzione a quella che è la condizione delle persone sieropositive, per cui non si è mai parlato apertamente anche che le persone sieropositive hanno una sessualità attiva, anche se sono sieropositive, ovviamente, insomma, utilizzando dei metodi. Questa è una cosa che, di cui non si è mai parlato apertamente in Italia. Se ne parla, diciamo così, con il proprio medico, con il proprio infettivologo, dove tutto viene discusso, però diciamo così, la società, no, pensa che una persona sieropositiva nel momento che si approccia a un rapporto sessuale o ti deve dire che è sieropositivo oppure magari, insomma, è meglio che si astenga, e questa è una cosa che comunque non ci ha permesso, diciamo così, di essere sereni, per esempio in alcuni aspetti della vita molto importante. Ci sono ancora molte barriere che la società ci ha costruito. Molte aziende, no, al momento dell'assunzione chiedono, anche se non si potrebbe, però c'è un vuoto legislativo su questo, chiedono il test HIV prima di assumere le persone, e quindi tu capisci che, insomma, è abbastanza pesante. Dal punto di vista della ricerca scientifica, beh, in Italia, voglio dire, la ricerca scientifica purtroppo sull'HIV ormai è quasi tutta d'appannaggio delle aziende farmaceutiche. Al 3380 94 94 ci è arrivato un sms che noi leggiamo. Il problema dell'AIDS è molto grave in Africa. L'Italia sta contribuendo negli aiuti a questo continente? Vincenzo, è una domanda che pongo a te. Ma sicuramente sì, nel senso, ci sono dei programmi ministeriali per aiuti ai paesi africani che, giustamente, come è stato detto dall'ascoltatrice, sono quelli maggiormente colpiti in questo momento. Ci sono anche molte organizzazioni private che fanno tanto in questo campo, e anche singoli medici o singole persone che a loro volta contribuiscono senza far parte di organizzazioni statali, magari di organizzazioni non governative, per poter in qualche modo o andare di persona a aiutare o per lavorare per la ricerca o cose che possono cercare di bloccare questa enorme epidemia che sta distruggendo intere generazioni in molti paesi africani. Quando eravamo fuori dalla porta, nel fuori onda, hai tirato fuori un foglio in cui c'era tutto l'elenco dei farmaci. Io mi sono spaventato perché il numero di questi farmaci è veramente tantissimo. Come mai ci sono tanti farmaci per combattere l'AIDS e soprattutto come mai ci sono tante tipologie di farmaci diverse per combattere questa malattia? Bene Fabio, allora le cose stanno così. Innanzitutto bisogna dire che noi attualmente abbiamo farmaci che non sono risolutivi, cioè nessun farmaco ci può permettere in questo momento di debellare completamente il virus dell'HIV. L'HIV è un virus particolare, simile ad altri, ma stiamo parlando di questo, è la sua capacità di mutare tanto a seconda degli impulsi che riceve dall'esterno. Avere tanti farmaci oggi può servire perché? Perché dopo essere stato trattato una persona con una determinata tipologia di medicine, si corre il rischio che dopo poco tempo diventi resistente, cioè non abbia più l'efficacia necessaria per mantenere il virus sotto una soglia di replicazione. In questo caso quindi bisogna cambiare il trattamento. Esistono diverse categorie di farmaci che a seconda appunto del momento, presumibilmente dell'infezione, dello stato clinico della persona, possono essere utilizzati. E sappiamo già che molto spesso nel tempo bisogna cambiarli, per quello che dicevo prima, perché questo virus cerca di scappare, cioè di crearsi delle resistenze in modo da poter continuare a vivere a scapito del proprio ospite. Quindi ci sono farmaci, i primi li avete sentiti nominare sicuramente, arrivarono a metà degli anni 80, prima assoluto era la ZT, quello che, di cui si parla anche nei film in Filadelfia, farmaci che in qualche modo hanno cominciato a dare un po' di speranza alle persone con questo problema. Ma la svolta ci fu poi a cavallo del 95-96, quando arrivarono quei farmaci che sono definiti come inibitori delle proteasi. Questi sono tutti farmaci che agiscono su enzimi particolari all'interno della cellula in modo da impedire che in qualche modo questo virus venga replicato. Questi inibitori delle proteasi in quegli anni hanno cambiato la storia naturale dell'infezione HIV. Erano farmaci, quindi sono stati farmaci importantissimi, ma che nel tempo si è visto hanno creato anche effetti collaterali abbastanza importanti che nel tempo sono stati o si tenta di limitare con le nuove formulazioni o con nuove categorie di farmaci che attualmente si stanno producendo. Quest'anno c'è stata la commercializzazione, una cosa abbastanza importante e inusuale negli ultimi anni, di due nuovi farmaci. Uno è quello che viene definito antagonista CCR5 e l'altro è un inibitore dell'integrasi, che si vanno ad aggiungere a tutte le categorie precedentemente conosciute, inibitore delle proteasi, alle antitrascriptasici, agli inibitori della fusione, che insieme, uniti, perché non si può usare un solo farmaco, vanno fatte associazioni, possono cercare di bloccare o tamponare quella che è la distruzione delle cellule e immunità da parte del virus. Volevo che tu dicessi una cosa importante, cioè che se una persona sta seguendo una terapia e questa terapia per qualsiasi motivo viene interrotta, cosa succede? Ecco Fabio, questa è una cosa importantissima, ti ringrazio. Il discorso è che l'aderenza alla terapia è una cosa importantissima. Questo vale per quasi tutte le malattie, diciamo, croniche, dai ipertesi o i cardiopatici, però in questo caso ancora di più. Noi sappiamo che saltare, siccome questi farmaci vanno presi tutti i giorni, magari una o due volte al giorno, a seconda delle formulazioni che si decide col proprio medico, non devono mai essere saltate delle dosi, perché saltando le dosi, anche solo una volta o due volte a settimana, si può andare a indurre nel virus una resistenza, cioè il virus in qualche modo, se non ha una pressione farmacologica adeguata, si cerca di scappare più velocemente rispetto al fatto che possa appunto essere in qualche modo tenuto a bada dai farmaci. È importantissimo quindi cercare di avere un'aderenza totale alla terapia. Noi ci lasciamo con un altro pezzo musicale che è sempre John Woodward con Revolution Now. E siamo proprio in conclusione di trasmissione. Per motivi vari la ricerca è basata soprattutto sulle case farmaceutiche, che sono naturalmente ditte private. I costi di questi farmaci sono elevati, per cui bisogna usarli sempre in maniera adeguata, e quindi bisogna fare in modo che anche le persone sappiano che, come vanno presi e quello che stanno facendo. In più bisogna razionalizzare sicuramente quelli che sono i percorsi del territorio, perché voi capirete che ci sono vari livelli, ci sono le persone malate in ospedale, sono i day hospital, ci sono gli ambulatori, ci sono i servizi di assistenza domiciliare, tante cose. Quindi bisogna evitare, proprio perché siamo in un periodo di carenza assoluta di risorse, di tagliare tutte le spese inutili e cercare di razionalizzare meglio quelli che sono i pochi soldi che abbiamo a disposizione. Sulla sanità in crisi che non ha risorse, penso che sia un qualcosa che non, così, ci sente tutti i giorni, e quindi non sappiamo bene come poterci rapportare al futuro. Vincenzo, un'ultima domanda, visto che siamo anche in una radio di servizio, se una persona sieropositiva si volesse mettere in contatto con voi, come potrebbe fare? Dunque, qui a Bologna ci sono varie possibilità. Io inizio dicendo che noi al Sant'Orsola, quindi al padiglione 6, malati infettivi del Sant'Orsola, abbiamo gli ambulatori che sono aperti specifici per questo problema, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14, e basta venire direttamente, non c'è bisogno neanche di appuntamento. Sul territorio esistono altre strutture analoghe che sono presso l'ospedale maggiore, che sono gestite sempre dalla nostra equip, essendo noi l'unica malattia infettiva, diciamo, ospedaliera presente sul territorio della provincia. E in più c'è un telefono verde dove si possono chiedere informazioni o anche chiedere di fare un test in maniera anonima. L'unico posto, appunto, dove si può fare in maniera completamente anonima in questo momento il test è presumibilmente il telefono verde. Noi con questa informazione finale chiudiamo la trasmissione di Calcio Fotone. Ringraziamo Vincenzo Colangeli, grazie ancora per essere venuto in trasmissione, grazie per essere venuto in diretta. Ci risentiamo sabato prossimo, stessa ora, stesso fotone, e buona scienza a tutti.